E passiamo ad un altro libro di tutt'altro genere, L'arte di abitare la terra di Ugo Tognetti, pubblicato da Asino d'Oro. L'altro era pubblicato da Gargoyle, quello di Marco Evangelisti, mi ero dimenticato di dirlo. Ecco, Tognetti è un docente di scienza delle costruzioni, però Sì. se ne va in giro, sta sempre in giro, e va sempre in Africa e nel Vicino Oriente, no? A Sì. cercare che cosa? Non è un archeologo, però ogni tanto si No, no, insinua anche in sono. questi siti, ma a trovare cose stupende che stanno in Sì, disfacimento. sono un architetto che ho la fortuna di occuparmi delle culture costruttive tradizionali. E dopo l'Italia, che è ricchissima di storia, però c'è un mondo fantastico e di cui io devo dire per primo non immaginavo esistenza e ampiezza. Ci sono nel Nord Africa, nell'Oriente, costruzioni in terra cruda che sono un incanto e che sono veramente straordinarie e Ma che lasciate nel degrado più sono totale. talvolta nel degrado più totale in sistemi monumentali abbandonati, ma talvolta sono invece continuamente riproposte con manutenzione, modificate e sono, come dire, messaggi che vengono da un mondo e da culture che sono diversissime e per questo stesso affascinanti. Ecco, un esempio che su tutti che puoi fare di un luogo che ti ha particolarmente Sì, no, colpito. ma Adesso tu vieni dall'Afghanistan, per esempio. sì, ora vengo dalla fine, sono stato in Sei ottobre, abbronzatissimo, sei arrivato adesso, sì. sì, no, in Afghanistan perché c'è un progetto straordinario di recupero di un'antichissima moschea, ormai quasi allo stato di rudere, ma di un'importanza estrema nel nord dell'Afghanistan. Sono rimaste, si chiamava Nogumbah, cioè nove cupole in Dari. La lingua afghana, e che ora è crollata, ma ci sono degli arconi storiati con gessi colorati, con delle descrizioni astratte magnifiche, sconosciuta praticamente a tutti, e stiamo lavorando E lì per recuperarla. pensare che questi elementi straordinari, no, che si trovano sparsi per il mondo dovrebbero essere di per sé un elemento di unificazione culturale, morale, sociale per tutti quanti, no? Dovrebbero essere solo questi ad indurci Sono a d'accordissimo. comportarci in maniera diversa.